classe d'Europa. Sarà che in Italia non è seria la toppa. E noi ragazzi, e noi che famo? Pensiamo solo al numero di quelle che chiavamo. Famo una botta, famo bisboccia, damo una cotta, famo una roccia. In Italia a 16 anni vai a scuola con gli spack, ma qualcuno a 16 anni sta già rota per il crack. Chiuso in pezzi de busta per monnezza, già da quello capisci che sei tratta di schifezza. E tu pipi per sentirti qualcuno, ma quando te scende poi te senti nessuno. Due volte che me so alzato, due volte che trovo il cesso occupato e mi incido con il vetro al petto. Da quando mi madre non mi porta più rispetto. Cavallo pazzo, cavallo goloso, per la figa so troppo geloso. È la verità e sono uno schifoso, e quando sto fatto sono ancora più scabroso. Cavallo pazzo, cavallo goloso, per la figa so troppo geloso. È la verità e sono uno schifoso, e quando sto fatto sono ancora più scabroso. Mi scaglio con ancora più ardore, nella testa mi scontro con ancora più furore. Scabroso è il mio umore, me vorrei provocare ancora più dolore. Lo vorrei fare, eppure non mi piace. Fa quel che voglio, non ne so capace, ma arriverà anche quel momento che stupirò tutti con molto sgomento. Non mento, mi piera cazzotti sotto il mento, con una raffica veloce come il vento. È così che va ed a volte mi spavento, quando nello specchio c'è il mio sguardo spento. La nostra vita, lento tormento che va e prosegue all'invecchiamento. La ruota che gira è il procedimento, non fa come me e goditi ogni momento. Cavallo pazzo, cavallo goloso, per la figa so troppo geloso. È la verità e sono uno schifoso, e quando sto fatto sono ancora più scabroso. Cavallo pazzo, cavallo goloso, per la figa so troppo geloso. È la verità e sono uno schifoso, e quando sto fatto sono ancora più scabroso. E ci sta in ogni caso qualcosa che non va, guarda caso. Che caso? Guarda che caso, guarda che casino. Me faccio un'altra sega e sborro nel cestino. E così, tra mille tresciate, sono così molte delle mie serate. Ma alla fine, cosa vuoi che sia? Io sborro nel cestino, tu sulla scrivania. Davanti al computer, su YouPorn, per non fatte sgamà, metti a palla i corn. E nella notte, cammino piano piano, andando in giro con una birra per mano. E non mi chiede se il fegato è sano, finirò ubriaco sotto un ponte di Milano. Il mio testo più scabroso, ridimmi che so strano. Io sono il milanese che te rappa in romano. Cavallo pazzo, cavallo goloso, per la figa so troppo geloso. È la verità e sono uno schifoso, e quando sto fatto sono ancora più scabroso. Cavallo pazzo, cavallo goloso, per la figa so troppo geloso. È la verità e sono uno schifoso, e quando sto fatto sono ancora più scabroso.